Dopo di me, Alfano. Berlusconi convince anche la Lega. A Palermo mi hanno detto che è nipote di Alberto da Giussano.